Un buongiorno a tutti e un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Big World. Questo energicamente impariamo a volerci bene, è un nuovo appuntamento. Io sono Franco Cesari e oggi vi parlerò degli incroci esistenti tra la fisica quantistica occidentale, la fisica moderna, e la spiritualità orientale, cioè quella che permea le nostre attività, attività di energicamente, ed è ampiamente utilizzata all'interno delle discipline che siamo soliti trattare. Quando esploriamo questo mondo submicroscopico nel quale operiamo, solitamente ci convinciamo del fatto che il mondo è un insieme di comportamenti inseparabili che interagiscono tra loro in modo continuo, e in questo l'uomo è parte integrante di questo sistema. Ed è con parole molto simili a queste che Fritjof Capra, nel suo libro Il Tao della Fisica, inizia un lavoro di ricerca, di indagine, col quale si è prefisso di far emergere le analogie, talvolta anche notevoli, tra la fisica occidentale e moderna, derivante dalla meccanica quantistica, e la spiritualità orientale, tutto ciò che riguarda quindi la filosofia relativa al mondo e alla cultura sino-giapponese. La mente dell'uomo ha a disposizione due vie per raggiungere la conoscenza. Una via razionale, conosciamo bene, una via intuitiva, meno conosciuta, forse meno ovvia. La prima è associata alla scienza, la seconda invece viene associata più a aspetti spirituali, a volte anche religiosi. In Occidente ha sempre prevalso il razionalismo come strumento di indagine, mentre in Oriente abbiamo vissuto un atteggiamento sostanzialmente opposto, cioè la parte spirituale ha sempre predominato rispetto alla parte razionale. Secondo Capra, l'approccio così rigorosamente razionale nostro occidentale porta con sé un'intrinseca difficoltà di comprensione della realtà e di conseguenza anche di comunicare e divulgare i risultati raggiunti. Perciò, pur riconoscendo al mondo razionale il ruolo comunque importante nel processo di ricerca della conoscenza, ne evidenzia i limiti, sostenendo che senza l'intuito le conoscenze razionali rimarrebbero soltanto un insieme di dati, i quali difficilmente poi troverebbero una coerente giustificazione in un contesto divulgativo, dove l'emozione, la parte emotiva e intuitiva invece ha un aspetto preponderante, importante quantomeno. In questo lavoro affiorano quindi le difficoltà di tenere scisse le modalità occidentali di ricerca da quelle della modalità orientale relativa alla ricerca interiore. Anzi, quello che emerge è una sostanziale affinità, perché poi entrambe vengono ricondotte a un termine che è quello dell'esperienza. La caratteristica fondamentale che sta alla base delle filosofie mistiche orientali è la consapevolezza dell'unità e della mutua interrelazione di tutte le cose e di tutti gli eventi. La constatazione che tutti i fenomeni del mondo sono manifestazioni di una fondamentale unicità. In maniera sorprendente, l'unicità dell'universo, così rappresenta anche la conclusione, oserei dire, rivoluzionaria alla quale è pervenuta poi la fisica quantistica, la fisica moderna. Studiando i vari modelli della fisica subatomica, vedremo che essi esprimono ripetutamente, in modi diversi, la stessa intuizione. I costituenti della materia e i fenomeni fondamentali ai quali essi prendono parte sono tutti in rapporto reciproco, interconnessi quindi e interdipendenti. Non possono essere compresi come entità isolate, ma solo come parti integrate di un tutto, del tutto. Che il solo approccio razionale non fosse sufficiente per comprendere a fondo la fisica moderna era stato più volte messo in evidenza dai suoi stessi padri fondatori, che in più occasioni avevano denunciato carenze nei metodi di indagine, carenze nelle giustificazioni logiche e persino carenze nel linguaggio. Insomma, per quanto la meccanica quantistica poggi su una soddisfacente trattazione matematica che le ha permesso di essere universalmente accettata, l'interpretazione verbale è molto meno convincente e ancor meno lo è la possibilità di divulgare e di diffondere la scienza. È di grande effetto la somiglianza che si può ravvisare tra alcuni scritti dei grandi fisici dei primi del Novecento e alcuni estratti di testi sacri orientali, poi. Mentre da un lato, per esempio, Niels Bohr spiega che le particelle materiali isolate sono astrazioni, poiché le loro proprietà sono definibili ed osservabili solo mediante la loro interazione con altri sistemi, dall'altro lato, i mistici orientali vanno ad affermare che le cose derivano il loro essere e la loro natura dalla mutua dipendenza e non sono nulla di per se stesse. Gli sconvolgenti paradossi che nacquero con la fisica quantistica fecero vacillare i rigidi schemi che la logica occidentale aveva da sempre usato come faro illuminante e arbitro di discernimento. La realtà atomica sgretola ogni possibilità di certezza e fonde gli opposti in un limbo nel quale l'essere e il non essere possono coesistere simultaneamente. Robert Oppenheimer spiegava tutto questo con le seguenti parole. Alla domanda se la posizione dell'elettrone resti sempre la stessa, dobbiamo rispondere no. Alla domanda se la posizione dell'elettrone cambi col passare del tempo, dobbiamo rispondere no. Alla domanda se esso sia fermo, dobbiamo rispondere no. Alla domanda se esso sia in movimento, dobbiamo comunque rispondere no. Le stesse considerazioni le troviamo nell'approccio mistico orientale, che da sempre è stato improntato al rifiuto delle rigorose contrapposizioni che portano a rappresentare la realtà come un continuo avvicendarsi di opposti. Nelle Upanishad, i testi religiosi e filosofici indiani, si dice: costui si muove, costui non si muove. Costui è lontano, costui è vicino, costui è all'interno di questo tutto, costui è anche all'esterno di questo tutto. Dinanzi a una realtà che non ha più contorni netti e che non può essere quindi inquadrata in paradigmi fissi, la mente non ha altra soluzione che continuare a muoversi e a cambiare punto di vista. Questo è ciò che hanno dovuto fare i fisici, nel momento in cui hanno accettato, ad esempio, il dualismo onda-particella. Questo è ciò che fanno anche i mistici orientali per interpretare una realtà che si trova al di là degli opposti. Il Lama Govinda afferma che il modo orientale di pensare consiste soprattutto nel girare intorno all'oggetto della contemplazione, un'impressione sfaccettata, cioè pluridimensionale, che si forma dalla sovrapposizione di singole impressioni ottenute da punti di vista differenti. Niels Bohr aveva ben chiaro il legame tra il pensiero orientale e la sua interpretazione quantistica, a tal punto che quando la Danimarca gli assegnò un titolo nobiliare come riconoscimento dei suoi grandi meriti e gli fu chiesto di scegliere uno stemma, la sua scelta cadde sull'emblema cinese del Tai Chi, che rappresenta la complementarietà degli opposti Yin e Yang. A tale stemma, Bohr fece aggiungere il motto «Contraria sunt complementa», riconoscendo così una profonda armonia tra l'antica saggezza orientale e la scienza occidentale moderna. E con questo direi che è tutto anche per quest'oggi. Ringrazio gli amici di Radio Big World per questa splendida disponibilità ed ospitalità che ci offrono. Vi ricordo che energicamente ha sede a Firenze, in via Europa 95, e poi ha un'altra sede a Roma, in via Valdosso 86. Ci potete raggiungere ai numeri Firenze 340 2345 340 e a Roma al 329 8989 669. È tutto per quest'oggi, vi ringrazio per l'attenzione ed a presto.